Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quest'estate ho avuto la fortuna di passare alcuni giorni in un posto molto particolare, che è l'Alta Maremma, sul Monte Amiata, o meglio di fronte al Monte Amiata, per l'esattezza sul Monte Labbro. E lì ogni tanto capitava, nel silenzio assoluto che regnava intorno al posto in cui stavamo, capitava di sentire questa sorta di tuoni in cielo. Alzavi gli occhi e vedevi questi caccia, di fatto, questi aerei da guerra, perché a Grosseto, a un'ora e mezza da lì, c'è una delle più importanti, forse la più importante, vabbè, mi addentro in un discorso che non conosco. Comunque c'è una base aeronautica molto importante, è un aeroporto molto importante. Ecco, la storia che vi racconto oggi, ogni volta che alzavo gli occhi e vedevo quei caccia mi tornava alla mente. La storia di oggi è la storia di Bruno Servadei, che avete già probabilmente sentito nella passata stagione, e che racconta in maniera del tutto naturale una cosa che naturale non è, e cioè di come in aereo, in cielo, su un caccia, su un F-104 per esattezza, uno che fa questo mestiere, un giorno si possa trovare a dover aiutare un altro caccia, un altro F-104, aiutare perché questo caccia ha dei problemi a un'ala, e scoprire che la persona che si trova su quel caccia è una persona molto importante per lui. La seconda parte invece di questa puntata, tutta dedicata al cielo e agli aerei, l'ha scritta Paola, e racconta di come il marito e il figlio, invece, che sono piloti amatori, credo che si dica, siano sopravvissuti di fatto a una cosa che, quando capita, è difficile uscirne vivi, a un incidente aereo. Cioè il loro aereo è caduto e loro ne sono usciti sani e salvi. Ancora qualche giorno di pazienza, e settimana prossima ritorniamo in diretta con la terza stagione di Voi Siete Qui. Continuate a scrivere le storie per questo programma, perché continuano ad arrivarne, ma non sono mai abbastanza. Una storia che racconti qualche cosa di voi in un'unica pagina. Voi siete qui, @radio24.it. Era una splendida giornata di metà agosto, perfetta per volare. Dal mio velivolo stavo seguendo quello di un giovane assegnato da poco al gruppo. Era il suo terzo e ultimo volo di transizione sull'F-104S e non richiedeva da parte mia particolare impegno. Avevo già visto che il ragazzo sapeva il fatto suo e avrebbe completato il programma della missione di volo senza problemi. I piloti di F-104 arrivavano al gruppo di gioia del Colle dalla scuola di Grosseto con parecchie ore di volo già fatte sul biposto, e i tre voli di transizione sulla versione S erano una pura formalità. Io sono diventato pilota militare perché facevo aeromodellismo e quindi mi piacevano gli aeroplani. Poi sono entrato in accademia più per fare il biennio di ingegneria che per fare una vita militare. Poi ho scoperto il volo e ho deciso che mi piaceva più volare che fare l'ingegnere. Eravamo ormai nella fase finale di un avvicinamento sotto controllo radar alla pista, quando la torre di controllo segnalò un'emergenza in corso. Un F-104 di un'altra base aveva avuto un'avaria e si stava dirigendo da nord verso il nostro aeroporto. Il pilota aveva chiesto l'assistenza di un velivolo che lo accompagnasse all'atterraggio. Il programma del mio volo prevedeva di fare altre manovre con il giovane dopo l'avvicinamento, ma vista la situazione lo feci atterrare e mi diressi verso il velivolo in avaria. Lo avvistai poco dopo e mi ci misi in coppia. Era un F-104 di Ghedi, con il diavolo rosso in bella mostra sulla carlinga, ma era un diavolo acciaccato. Il serbatoio esterno sotto l'ala era stracciato e rigirato sopra l'ala. La ferraglia sbatacchiava a destra e a manca con veemenza. Mi chiesi come avesse potuto distruggersi a quel modo e quali avrebbero potuto essere gli effetti sull'aerodinamica del velivolo, stante il fatto che la ferraglia copriva buona parte della già minuscola ala. Chiesi al pilota cosa cavolo fosse successo, e la voce che mi disse «Non lo so, ho sentito una gran botta» mi suonò familiare. Così chiesi «Non è che ti chiami Servadei?» «Certo», fu la risposta. Eccolo là. Ti pareva che chi si era messo in sto casino non fosse mio fratello? Provai un senso di angoscia e nello stesso tempo di sollievo. Mio fratello era più giovane di me, ma aveva cominciato a volare sull'F-104 anni prima. All'uscita dall'accademia era andato direttamente a un reparto F-104, mentre io, fino a pochi mesi prima, ancora volavo con il vecchio F-84F. Sapevo che come pilota era molto quotato e aveva esperienza da vendere sul velivolo. Avrebbe saputo meglio di me cosa fare per risolvere la situazione una volta che io l'avessi descritta. Io sono più grande di 3 anni, quindi lui ha visto quello che ho fatto io. Lui era poteva fare il calciatore a grandissimo livello, ma ha deciso di fare anche lui il pilota. Le ali molto arretrate rispetto alla cabina dell'F-104 non gli consentivano di rendersi conto di cosa fosse successo là dietro. Non gli dissi chi ero e immagino che la cosa non fosse determinante in quel frangente, visto i problemi di cui occuparsi. Gli descrissi la situazione, suggerendo di provare la governabilità fino a una velocità compatibile con l'atterraggio, cosa che facemmo. A 200 nodi l'aereo sembrava ancora governabile e così andammo all'atterraggio. Nei pressi della base improvvisamente tutta la ferraglia che sbatacchiava sull'ala si staccò, passando pochi centimetri sotto il piano di coda. Guardai giù per vedere dove andava a finire e mi rilassai. Eravamo su una vasta area disabitata. Il serbatoio rimase tronco, a livello di una delle paratie antisbattimento, e a quel punto l'atterraggio divenne una formalità. A terra, finiti i saluti di rito, trovai mio fratello piuttosto scioccato, un po' per lo scampato pericolo, ma molto di più per le conseguenze di quello che aveva combinato. Passando a bassa quota fra le isole Tremiti, aveva tranciato il cavo dell'alta tensione che le alimentava, lasciandole al buio nell'imminenza di Ferragosto. E lo diciamo sempre che ogni storia è straordinaria a modo suo. Però, quante volte ti capita di sentire il racconto di un pilota d'aereo? E quante volte di un pilota di caccia? Ancora, quante volte capita di sentire il racconto di un pilota di caccia che si trova ad aiutare un altro pilota in avaria che è suo fratello? Direi che in quanto a particolarità, questa storia aveva tutte le prerogative per essere considerata tra le prime 3 arrivate in questi anni per eccezionalità. Le storie di solidarietà tra fratelli sono molto diverse di quelle tra i diversi componenti della famiglia, tipo figli e genitori o figli e zii, nonni, nipoti. I fratelli sono diventati grandi insieme e ne sono neanche accorti. Hanno visto nell'altro lo specchio dei loro anni che passavano. Quindi non si sono impressionati di come il tempo sia passato su di loro, perché vedendolo sulla faccia dell'altro non ha lasciato nessun segno distintivo. E si sono trovati grandi insieme e forse hanno iniziato ad accorgersene del tempo quando hanno cominciato insieme a prendersi cura dei propri genitori. Bruno, nel suo racconto, un bel giorno di agosto, sopra i cieli dell'Italia centrale, si prende cura di suo fratello senza che lui se ne renda conto e lo porta a terra volandogli a fianco. Qualche anno fa avevo letto una storia simile che partiva però da una prospettiva molto diversa e si svolgeva soprattutto in una cornice diversa. La storia è quella di Mike e Gordon, due fratelli di circa 50 anni che non si parlano più da 20, per motivi familiari che non ricordo. Vivono sulle coste dell'Alaska, fanno i pescatori. Fanno un tipo di pesca molto pericolosa. È la pesca al granchio reale, che si svolge in un tratto di mare ancora più pericoloso, il mare di Bering, che si trova tra l'Alaska e la Siberia. I pescherecci calano in mare delle nasse e passano a riprenderle sperando che i granchi ci siano entrati e le abbiano riempite. È un tipo di pesca talmente spettacolare e pericolosa che Discovery Channel ci ha ricavato una serie di documentari televisivi di grande successo. Comunque, i due fratelli a volte si incrociano sia a terra sia in mare, ma non si rivolgono mai la parola. Finché una notte, Mike rimane invischiato in una tempesta spaventosa. Perde le nasse che ha calato in acqua, perde il pescato, ma soprattutto perde un membro dell'equipaggio. Il motore è in avaria, la barca è in totale balia di un mare con onde di 9-10 metri e nessuno che li possa salvare nel raggio di decine di miglia. Quando il Mayday lanciato dalla barca arriva alla guardia costiera, viene intercettato dalla radio di Gordon, il fratello, che si trova a 70 miglia lontano da lui e fuori da quella bassa pressione che sta mettendo in difficoltà la barca del fratello. Gordon molla anche lui le nasse e un incasso di centinaia di migliaia di dollari e si infila in quella tempesta. In una notte di navigazione raggiunge la barca del fratello e lo trascina fuori da là. Non so altro, non so se si sono parlati, se si sono riappacificati, ma credo che non ci sia bisogno di saperlo. Erano fratelli e uno si è preso cura dell'altro. We know the fire waits. Some believers all of the sinners the same. Girl, you and I would die. Believers bound to the tracks of the train. If I'm born again, I lose a little track. Dopo 20 tuffi di fila in piscina, mio fratello Carlo non risale. Sento il casino mentre faccio una vasca a dorso. Mi immergo e lo riprendo dal fondo a 3 metri, quasi senza fiato. I miei hanno saputo solo di un malore. Enzo da San Nicola. E poi ancora fratelli che salvano i fratelli. Lui in Camporella si è piantato nel fango. Poi mi ha chiamato e sono andato a recuperarlo e a trascinarlo fuori con la macchina. 349-238-6666. Si parla di fratelli nei guai e degli altri fratelli che li salvano. In questo caso però i fratelli erano in aria, erano su due F-104 e uno dei due ha semplicemente accompagnato l'altro all'atterraggio. E quell'uno dei due è Bruno che ha il telefono con noi. Pronto Bruno? E là, come va? Come va? Io benone, tu come stai? Non c'è male, da vecchietto. Bruno, innanzitutto arriva un messaggio di Moreno che scrive, credo da Atlanta, ho dato un'occhiata al suo profilo Facebook al volo, che subito mi ricorda che io sto parlando con un generale in realtà. Sì, vabbè, ormai si diventa tutti generali andando in pensione, quindi... No, guarda, io non credo Bruno, sinceramente, non so quando andrò in pensione e non credo che diventerò generale. Parlo ovviamente dei militari che hanno fatto carriera, insomma. Ecco. Tu quanto ci sei rimasto in aeronautica? Beh, sono rimasto 37 anni, mi pare, 37. E quante ore di volo ti sei sparato? No, mica tante, ne avevo poco più di 3.000, quindi non... Non è che si sui caccia non è che si fanno voli molto lunghi, si fanno voli di un'ora, un'ora e mezza, dipende dalla specialità. Io facevo il caccia bombardiere, quindi si facevano voli a bassa quota per non farsi vedere dai radar, e un'ora e mezza più o meno, era il volo. Il volo tipico. Questa è una domanda ovviamente di rito, a uno che mi dice che ha fatto il pilota di caccia bombardieri ti chiedo se hai mai bombardato qualcosa o qualcuno. Non mi è capitato, durante il mio periodo non abbiamo fatto guerre, non siamo andati a dare fastidio a nessuno, facevamo semplicemente una specie di attività di confronto ai tempi dell'Unione Sovietica, no? Quando c'era l'Unione Sovietica loro avevano gli aeroplani armati verso di noi e noi li avevamo verso di loro e così si è mantenuta la pace. Tu prima, facendoci paura uno con l'altro. Fuori onda però mi raccontavi che eri uno dei giovanissimo, 23 anni, quanti anni, eri uno dei piloti pronti a partire con una bomba nucleare, giusto? Beh, c'è stato il periodo dopo la crisi di Cuba, quando a Gioia del Colle c'erano i missili americani puntati sull'Unione Sovietica e invece a Cuba c'erano i missili sovietici puntati sull'America, che c'è stata quella grossa crisi. Sì. Quando si sono messi d'accordo, lì abbiamo rischiato la terza guerra mondiale, quando si sono messi d'accordo Kennedy e Khrushchev e sono stati smantellati i missili sia da una parte che dall'altra, okay. Tutta la capacità di ritorsione nucleare che c'era è stata passata ai cacciabombardieri. I cacciabombardieri italiani, un gruppo di Ghedi e un gruppo di Piacenza, io ero in quello di Ghedi, sono stati armati con bombe nucleari. Ma questo vuol dire che voi eravate a letto, ma se uno vi chiamava voi dovevate salire su sta aereo e andare a bombardare? Non eravamo a letto, stavamo dentro... A letto per dire di notte, cioè nel senso che anche di notte eravate pronti per farlo. Sempre, H24, dovevamo partire con qualsiasi tempo, in qualsiasi condizione. Ma e bombardare chi cosa? I nostri obiettivi erano nella parte dell'Unione Sovietica, chi ce l'aveva in Ungheria, chi ce l'aveva in Bulgaria, chi ce l'aveva in Italia. Quanto è durato questo periodo? È durato fino a quando, pian piano calando come numero d'aeroplani, ma è durato fino a quando è caduto il muro di Berlino. Okay. Ancora credo che ci fosse un tornado, mi pare, dall'allarme. Non so, io adesso i dettagli di cosa facevano dopo non lo so. Io facevo l'allarme con l'F-84F. Che ho dato un'occhiata su internet, sembra uno di quegli aerei. Sembra un aereo d'epoca. Adesso probabilmente è un aereo d'epoca, non lo so. Però sembra una di quelle cose che ti domandi come faccia a stare in aria. Tra l'altro, qualcuno mi scrive, più di uno: gli F-104 erano chiamati le bare volanti. Abbiamo avuto parecchi incidenti, era un aeroplano particolare, era lungo 17 metri, aveva 6 metri e mezzo di apertura alare, aveva richiedeva un pilotaggio particolare, insomma, l'aeroplano era discreto, insomma, da vedere. In quanto tempo uno impara a pilotare un caccia? Ci vuole un paio d'anni per diventare cosiddetto combat ready, cioè pronto al combattimento. Okay. Si passa, ovviamente non è che si sale direttamente sul caccia, si comincia dagli aeroplani lenti e facili e pian piano si va avanti finché si arriva ai velivoli. Adesso abbiamo l'EFA o l'MX, questi aeroplani qui. Torniamo al racconto, perché rimane questo appunto interrogativo sul cavo tranciato dell'alta tensione verso le isole Tremiti. Cioè, come può succedere una roba del genere? Soprattutto che danni può provocare? Beh, il danno che ha provocato è stato che lì sono rimasti senza corrente a Ferragosto, quindi tutto il pesce pescato il giorno prima che vendevano nei ristoranti è andato a male, perché c'erano tutti i frigoriferi che ovviamente sono rimasti senza corrente. Quindi è stato chiesto un rimborso di svariate centinaia di milioni, che all'epoca credo l'aeronautica abbia pagato. Se succedesse oggi credo che sarebbe un po' più dura per il pilota. Dopo l'aeronautica cosa hai fatto? Hai continuato la carriera? Sei andato in pensione subito? Ah, io sono andato in pensione direttamente dall'aeronautica. Poi facevo l'istruttore sub e mi divertivo andare sott'acqua. Poi abbiamo messo su questa pattuglia acrobatica di ultraleggeri e adesso vado in giro a fare esibizioni con questa pattuglia che si chiama Blue Circe, con la quale andiamo anche all'estero. L'anno scorso siamo stati ad Atene, quest'anno ci torniamo, insomma, ci divertiamo. Siamo quattro nonnetti che, non avendo niente da fare, si divertono così. Esatto, lo racconti come se andaste a fare un giro in bicicletta, sostanzialmente. Però fatemi, dicevi prima fuori onda, dei numeri tipo una pattuglia acrobatica. Sì, come in piccolo, come le frecce tricolori. Facciamo anche le fumate tricolori a fine esibizione, facciamo gli incroci tipo la bomba, come fanno un po' le frecce tricolori in piccolo, con degli aeroplanetti che sono... hanno il motore grosso come quello dell'appunto. Certo, un 1300 mi dicevi prima fuori onda. Sì, 1300, sì. Bruno, poi ti saluto. Senti, mi dicevi però che sei stato anche nello stato maggiore, oltre che in volo con gli F-104. Sì, ecco, una delle cose divertenti che ho trovato dall'aeronautica è che mi ha fatto fare una vita molto varia, per cui ho fatto stato maggiore dopo essere stato a far pilota. Poi sono andato a fare l'addetto militare in Svezia e Norvegia e poi ho comandato una cosiddetta Top Gun, base Top Gun, che era l'unica che c'era in Sardegna, e poi sono stato anche al Quirinale per 3 anni. E cosa facevi al Quirinale? Ogni volta che si cambiava completamente vita. Sì, quindi, tra l'altro sembra una vita bellissima vista da questo punto di vista. Cosa facevi al Quirinale? Ero il consigliere aggiunto per l'aeronautica del presidente Cossiga. Quindi, cioè, Cossiga voleva sapere qualcosa sull'aeronautica e chiamava te. Certo, sì. Tipo, dimmi una cosa che ti ha chiesto Cossiga. Quando andavamo in giro, per esempio, mi ha fatto scrivere parecchie cose su Ustica, per esempio. Oppure io seguivo in quel periodo, avevamo le navi nel Golfo Persico. E quindi gli facevamo una specie di telegiornale delle cose militari tutte le sere in una sala la situazione che avevamo. Però andavamo in giro con lui tutte le volte, non so se noti, quando vedi in televisione c'è il presidente Napolitano, dietro ci sono sempre due ufficiali. Ecco, io ero uno di quelli. Sì. Che tipo era Cossiga? Ah, simpatico. Bruno. Simpatico, un sacco di battute, era abbastanza... Sì. Sapeva tutto di tutto. Se volete vedere qualche numero che fa Bruno, lo trovate su YouTube alla voce Bruno Servadei, si vede lui col suo velivolo. Grazie ancora Bruno per la storia e la chiacchierata. Ok. A presto, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao.